al mio cantuccio, donde non sento, se non le reste brusir del grano, il suon dell'ore viene col vento dal non veduto borgo montano. Suono che uguale, che blando cade, come una voce che persuade. Tu dici, è l'ora, tu dici, è tardi, voce che cadi blanda dal cielo, ma un poco ancora lascia che guardi l'albero, il ragno, l'ape, lo stelo, cose che han molti secoli, o un anno, o un'ora, e quelle nubi che vanno. Lasciami immoto qui rimanere fra tanto moto d'ale e di fronde, e udire il gallo che da un podere chiama, e da un altro l'altro risponde, e quando altrove l'anima è fissa, gli strilli di una cincia che rissa, e suona ancora l'ora e mi manda prima un suo grido di meraviglia, tinnulo, e quindi con la sua blanda voce di prima parla e consiglia, e grave, grave, grave mi incuora, mi dice è tardi, mi dice è l'ora. Tu vuoi che pensi dunque al ritorno, voce che cadi blanda dal cielo, ma bello è questo poco di giorno che mi traluce come da un velo. Lo so, lo so, lo so che è l'ora, lo so che è tardi, ma un poco ancora. Lascia che guardi dentro il mio cuore, lascia che io viva del mio passato. Se c'è sul bronco sempre quel fiore, se io trovi un bacio che non ho dato, nel mio cantuccio d'ombra romita lascia che io pianga sulla mia vita, e suona l'ora e mi squilla due volte un grido quasi di cruccio, e poi, tornata blanda e tranquilla, mi persuade nel mio cantuccio, è tardi, è l'ora. Sì, sì, ritorniamo, dove son quelli c'amano ed amo. Di Giovanni Pascoli, L'ora di Barga. Dalla raccolta Canti di Castelvecchio, 1903, pubblico dominio. Voce di Annibale Covini Gerolamo, Creative Commons 4.0 International, BYNC ND.